Due udienze questa settimana presso il Tribunale di Genova, sia martedì che mercoledì, due udienze che hanno visto susseguirsi degli stessi due testi. Il primo Zazzero Pasquale è al tempo, nel 2001, dirigente dell'ufficio prevenzione e soccorso, praticamente quella che è stata definita la sala gestione di G8 in occasione delle giornate, che seguiva tutte le comunicazioni radio, telefono e via cellulare, una sala dove erano presenti alti dirigenti come il questore, ufficiali dei carabinieri, una sala che si teneva in collegamento con l'altra sala operativa, quella di Forte San Giuliano. Tutte le comunicazioni sono state registrate e sono state acquisite attraverso due DVD che in questa mattinata il test ha portato in aula, perché dovranno servire come atti del processo. Sono state dunque acquisite con il parere ovviamente chieste dall'accusa e con il parere favorevole della difesa. Un test che ha risposto alle domande ovviamente dei PM su come avvenivano le comunicazioni e quant'altro, e per rispondere alle domande invece dell'accusa, al controesame, così mi viene definito, il test ha detto sia nella giornata di ieri che poi anche questa mattina, come è stato sentito, ha detto molti non ricordo. Segnaliamo soprattutto l'interrogatorio di ieri, in cui il test diciamo aveva dato il suo parere, che il corteo, perché poi il controesame è stato soprattutto su questo, il corteo proveniente dal Carlini, il corteo dei disobbedienti, non era autorizzato, per cui c'era, dice il test, c'era già la consapevolezza, c'era già l'ordine che questo corteo non dovesse sorpassare, non dovesse superare Corso Torino e la zona della Cavalcavia, guarda caso proprio dove questo corteo è stato attaccato dalla forza dell'ordine e lì fermato. Ricordiamo però, al contrario di quello che ha detto il test, proprio nella zona in cui era ancora autorizzato. Ecco, questa è una cosa che va segnalata. Poi il secondo test, per essere brevi, è un giornalista, Marco Preve, della redazione genovese di Repubblica. Lui ha risposto soprattutto in merito alle domande che riguardano il suo lavoro, perché durante la giornata del 20 ha seguito un gruppo di quelli che sono stati definiti Black Bloc, per cui ha risposto a delle domande riguardanti i fatti di strada di Piazza Manin, la carcere di Marassi e quant'altro. Un lungo interrogatorio, quello di oggi nei suoi confronti, perché viene fatto visionando il materiale video. Ecco, su come visionare il materiale video all'interno degli interrogatori, soprattutto di questo, il Tribunale ha deciso una cosa molto importante, dando su questo ragione agli avvocati della difesa, che prima avverrà l'esame, prima avviene l'esame del test e poi il controesame, e in seguito verranno mostrati i reperti video, perché la sua testimonianza non deve farsi influenzare dalle immagini, ma deve come dire, rimanere integra e rimanere basarsi sulla memoria, sui fatti che lui ricorda. Ecco, l'udienza è ancora in corso, un'udienza lunga quella di oggi, per questa settimana sarà tutto, poi si procederà ancora con due udienze la prossima settimana e poi dal mese di ottobre dovrebbe ritornare come di consueto una sola la settimana, cioè il martedì.